in primo piano. Giovedì 29 luglio, le notizie sulle prime pagine dei giornali in apertura sono sempre due. La Fiat, questa è la scelta del Sole 24 Ore, Fiat investe se ci sono garanzie, intesa con Confindustria per preservare il contratto nazionale metalmeccanico. Mentre la politica, siamo davvero forse alla resa dei conti tra Fini e Berlusconi, questa legge dei giornali, abbiamo sentito anche le ultime novità proprio nella notte. Le aperture dei giornali: Fini, offerta a Berlusconi, questo è il Corriere. Berlusconi pronto a espellere Fini per Repubblica. Fini offre la tregua al Premier per la Stampa. Per il Fatto Quotidiano, PDL, un casino totale. Il giornale torna sulla questione dell'appartamento a Monte Carlo di Alleanza Nazionale, nel quale abita il cognato di Fini, sostanzialmente il fratello della sua compagna. Adesso Fini spieghi il mistero di quella casa a Monte Carlo. Così anche Libero: Fini non si spiega la casa dei misteri. C'è anche un titolo dell'Unità, un'intera pagina praticamente nera dal titolo Squadristi. E questo è un titolo che cito così, poi andrà spiegato più avanti, lo faremo, perché c'è stata ieri, come dire, una conferenza stampa piuttosto turbolenta, quella del coordinatore del PDL, Denis Verdini. Oh, ma oggi bisogna partire dal Foglio. Il Foglio che cosa fa? Una breve conversazione di Giuliano Ferrara, il suo direttore, con Gianfranco Fini. Caro Cavaliere, deponiamo le armi, dice Fini. Questo è l'elemento politico centrale della giornata. Resettare tutto senza risentimenti. Con questa formula esordisce in una breve conversazione serale con il Foglio Gianfranco Fini. Cosa vuol dire, Presidente? Vuol dire che Berlusconi e io non abbiamo il dovere di essere, nemmeno di sembrare, amici. Ma dobbiamo onorare un impegno politico ed elettorale con gli italiani. Per questo ci tocca il compito, anche in nome di una storia comune non banale, di deporre i pregiudizi, di mettere da parte carattere e orgoglio, di eliminare le impuntature e qualche atteggiamento gladiatorio delle tifoserie. È l'unica via per evitare che una deflagrazione senza senso si porti via tra le macerie di un partito e di un'esperienza di governo la credibilità del centrodestra, prima di tutto nella testa e nel cuore di quanti ci hanno seguito e dato il mandato di rappresentarli. Non ci sarebbero né vinti né vincitori alla fine della mattanza. Quando dico che si deve chiudere una pagina conflittuale e aprirne una nuova, non faccio appello ai sentimenti, di cui non nego l'esistenza e che hanno la loro importanza per molti di noi. Non esibisco né chiedo ipocrisie, faccio invece appello alla ragione, ai fatti, all'analisi politica, alle basi pubbliche e discorsive intessute di dialogo e di capacità di riflessione comune di qualunque possibile fiducia tra diverse leadership. Eccola qui la mano tesa di Fini, che poi in questa conversazione in prima pagina del Foglio parla della questione morale cosiddetta. A Napoli ho parlato della stranezza del comportamento di un sottosegretario che si dimette senza avvertire l'opportunità di dimettersi anche da coordinatore regionale, parla di Nicola Cosentino. Ho letto invece il giorno dopo sul giornale di famiglia che avevo chiesto la testa di Berlusconi. Certo che se poi gli ultras, da sempre nemici di ogni buon compromesso politico, riportano al capo che io voglio fare un repulisti giustizialista, allora prevale la logica degli anatemi. Io ho radici, appartenenze culturali e politiche chiare, qui sto e qui resto, in ogni senso, nel senso dello schieramento e delle idee portanti. La mano tesa di Fini, ma nella notte c'è stato una riunione, alla quale tra l'altro è intervenuto anche Giuliano Ferrara, che ieri è stato intercettato proprio a uscire a Palazzo Grazioli attorno a mezzanotte e mezza, così dalle agenzie. Tanto che lo stesso Berlusconi avrebbe detto: questa non è farina del sacco di Fini, questa è farina del sacco di Giuliano Ferrara. E questa mano tesa di Fini è già stata in qualche modo respinta in maniera netta. Dopo un anno, parole senza senso, questo leggiamo sul Corriere della Sera, il retroscena di Francesco Verderami, il vertice del PDL tiene la linea dura, la linea anche secondo Claudio Tito di Repubblica è questa: ormai è troppo tardi. Il Cavaliere dice è una trappola, secondo Claudio Tito su Repubblica, tra 15 giorni o magari a Ferragosto, quello, ormai non chiama neanche più per nome il Presidente della Camera, ma quello ci tornerà ad attaccare, rimetterà tutto in discussione, ci ritroviamo a settembre a dover trattare su finanziaria, federalismo, riforma della giustizia. Insomma, la Quello che si evince dalla lettura dei giornali è che, come scrive Libero, la grande rottura, mettendo a pagina 6 una grande foto di Berlusconi e Fini, la grande rottura, questa volta Berlusconi ha deciso a chiudere i conti, nonostante questo tentativo in extremis di Fini. Anche per Bossi, ognuno per la sua strada, cioè Bossi prevede una divisione, anche se la tendenza è non si vada al voto anticipato. Tra l'altro, un Berlusconi che ieri è intervenuto in un paio di occasioni, per soprattutto ha parlato davanti agli ambasciatori, e parlando davanti agli ambasciatori, secondo il Corriere della Sera, ma lo trovate un po' su tutti i giornali, da ampio risalto a questo anche Il Fatto Quotidiano a pagina 3, Berlusconi avrebbe detto, per esempio, sulla legge sulle intercettazioni che approda in questi giorni, ormai in fase definitiva, anche se pare che verrà rinviata a settembre. E tra l'altro, se avete buona memoria, io avevo scommesso, credo, un euro sul fatto che non sarebbe mai stata approvata, un euro con voi, così virtuale, per fare una scommessa, per divertirsi. E beh, sentite cosa ha detto Berlusconi. Sono tentato a ritirare il disegno di legge. È stato massacrato da tutti gli interventi. Un disegno di legge che è stato sostanzialmente cambiato per Berlusconi, che dice sono tentato di ritirarlo, ma così magari vinco un euro. La legge è stata massacrata da tutti gli interventi, questo è anche riportato dal Fatto, il virgolettato di Berlusconi. Questa legge che approviamo migliorerà qualcosa, ma non ridarà al cittadino quell'inviolabilità della comunicazione scritta e orale che è anche nella Costituzione come diritto di libertà. Abbiamo mandato fuori un bel cavallo e ci viene restituito un ippopotamo. Queste sono le parole che avrebbe pronunciato Berlusconi. E a dire la legge, il disegno di legge sulle intercettazioni, forse lo ritiro. Sullo sfondo di questo c'è stata questa conferenza stampa davvero pirotecnica ieri di Denis Verdini. Denis Verdini, sapete, si è dimesso dalla banca, è implicato in questa vicenda della cosiddetta loggia P3. Perché il titolo di prima pagina dell'Unità è Squadristi su sfondo nero? Perché a un certo punto della conferenza stampa Claudia Fusani dell'Unità ha fatto una domanda a Verdini chiedendogli conto di alcuni movimenti bancari, di alcuni soldi. A quel punto è intervenuto l'onorevole Stracquadagno, spesso l'abbiamo sentito anche credo ieri alla Zanzara, spesso è stato ospite anche qui al Mattino, sempre molto fumantino, ha detto lei sta dicendo cazzate. La Fusani, la giornalista dell'Unità, si è adombrata dicendo stia a posto con le parole, le cazzate se vuoi al limite le dice lei, e ha ripetuto la domanda: onorevole Verdini, di chi sono i soldi arrivati nella sua banca, che servivano? A quel punto è insorto dal fondo della sala stampa chi? Giuliano Ferrara, che evidentemente è in grande forma, insomma si è ripreso gran parte della scena politica almeno e del palcoscenico ieri. Giuliano Ferrara ha iniziato ironizzando dicendo a cosa serviranno quei soldi, alla droga, a comprare armi, e poi ha iniziato a inveire contro la Fusani che dà lezione di moralità, siamo in uno stato di polizia, perché non le chiedete come mai da Repubblica è passata all'Unità in condizioni ancora da chiarire. Ovviamente si è scatenato il putiferio, la solidarietà della Federazione Nazionale della Stampa, cioè il sindacato nei confronti di Claudia Fusani, solidarietà che oggi si trova anche sul Corriere della Sera, perché tra l'altro in questa pirotecnica conferenza stampa Denis Verdini ha attaccato anche Fiorenza Sarzanini del Corriere dicendo come mai non c'è, scrive tutti i giorni di me e poi non si è presentata in conferenza stampa. Ha attaccato anche un giornalista di Repubblica dicendo faccia meglio le domande, al che il giornalista di Repubblica ha detto le domande le faccio come voglio io. E, insomma, è stata una conferenza bella, no? Vivace, anche se il clou è stato proprio questo scontro. Claudia Fusani, domande a Verdini, l'intervento dell'onorevole Stracquadagno e poi l'intervento finale dell'elefantino Ferrara, che ha citato che cosa? Una vicenda passata, la ricorda Libero a pagina 9, Claudia Fusani, a furia di seguire piste, Pistaroli, quando era Repubblica, finisce nella rete del Sismi, quello di Pio Pompa e Renato Farina. secondo gli elementi emersi, passava informazioni sui colleghi agli 007 di casa nostra, così scrive Enrico Paoli su Libero. Farina viene condannato, lei invece lascia Repubblica per approdare all'Unità. Oggi l'Unità appunto titola Squadristi con Maria Grazia Gerina, che scrive a pagina 11: aggressione all'Unità, Giuliano Ferrara perde la testa per Denis Verdini, che lo vogliamo ricordare è anche comproprietario del Foglio, il giornale di Giuliano Ferrara. Qui insomma si intreccia anche il motivo per il quale forse Ferrara si è adombrato molto. Giuliano Ferrara mimetizzato in platea, scrive Maria Grazia Gerina sull'Unità. Ascolta il copione del suo amico Denis e poi a un certo punto appunto sbotta su questa vicenda dei soldi. Qui si parla molto della vicenda dei soldi, prendendola per questo sfogo che c'è stato in conferenza stampa, ma in realtà la vicenda dei soldi è una vicenda che è sviluppata anche degli sviluppi dal punto di vista dell'inchiesta giudiziaria. Oggi ne scrive proprio Paolo Colonnello sulla Stampa, pagina 11. La premessa è questa: Denis inciampa in un mucchio di assegni. Come riferito in premessa, il Carboni effettua alcune operazioni finanziarie sospette nell'ambito delle quali veicola periodicamente somme per centinaia di migliaia di euro messe a disposizione da un imprenditore romagnolo coinvolto nelle operazioni paleoliche. Questo è uno stralcio della relazione del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma sulla vicenda nella quale è coinvolto Denis Verdini e riguarda, visto che l'Unità ha chiesto spiegazioni sui soldi, scrive Paolo Colonnello, si capisce che i nervi siano saltati perché la ciccia vera di tutta questa inchiesta, se esiste, sono loro, i soldi, gli affari, le mazzette, un argomento spinoso. Tanto che tre sere fa, durante l'interrogatorio in procura, gli avvocati di Verdini sono intervenuti riservandosi di far arrivare al procuratore una memoria tecnica perché Verdini da solo non riusciva a essere convincente. Secondo Colonnello sono ben quattro le operazioni finanziarie che prestano il fianco a delle critiche. La prima riguarda un assegno di somme di 230.000 euro, la seconda 16 assegni circolari per circa 200.000 euro, la terza circa 8 assegni circolari per un totale di 100.000 euro, la quarta infine riguarda un versamento di 800.000 euro. Questi sono i soldi di cui Claudia Fusani aveva chiesto conto a Denis Verdini. Sulla vicenda politica c'è, prima di andare al traffico, anche tutta la questione legata a Fini, l'appartamento, il giornale e Monte Carlo. Puntata seconda, ieri il giornale ha svelato di questo appartamento che una vecchia militante di Alleanza Nazionale aveva lasciato al partito una volta morta, tra cui aveva lasciato anche un appartamento a Monte Carlo. Questo appartamento a Monte Carlo, secondo il giornale, ora è abitato da Tulliani, il nome di battesimo non lo ricordo, ma insomma sarebbe il fratello della compagna di Fini, Elisabetta Tulliani. Adesso Fini spieghi il mistero di quella casa a Monte Carlo. Oggi il giornale ci ritorna con Vittorio Feltri che fa un editoriale e dice: è abbastanza strano che una casa regalata dall'Alleanza Nazionale sia stata inabitata per anni e quindi ceduta a una finanziaria e infine concessa in uso al fratello della signora Tulliani. Il presidente della Camera dovrebbe fare chiarezza. E oggi Gianmarco Chiocci scrive la puntata 2 da Monte Carlo, tra l'altro concludendo due continua, dice: a Monte Carlo c'è grande riservatezza, ovviamente non si può accedere al catasto, ma abbiamo chiesto a tutti i condomini, ci hanno spiegato di questa casa di lusso che per anni è stata inabitata e poi un paio d'anni fa appunto sono iniziati i lavori e a questo punto ricostruisce un po' chi ha fatto i lavori, questa TECAB del Principato. Il cognome Tulliani non passa inosservato tra gli inquilini del villino su tre piani che notano quel ragazzo seguire personalmente i giganteschi lavori di casa. Tutto torna, secondo Chiocci. Quello che fino a ieri non si riusciva a capire era perché l'appartamento avuto in eredità da Alleanza Nazionale fosse finito al cognato di Fini attraverso una misteriosa società offshore che avrebbe acquistato l'immobile a un prezzo sconosciuto dalla stessa Alleanza Nazionale. E il giornale insomma insiste: lascio la casa da N per una nobile causa, questo nel testamento, ma Fini ci mette il cognato, tanto che c'è anche un'intervista a Francesco Storace che dice ad Antonio Signorini sul giornale a pagina 5: se si dimostrerà vera questa vicenda è una cosa turpe che fa a pugni con certe grida alla moralità, quelle di Fini, che ci ha abituato a queste cose. Si proclama moralizzatore, ma poco tempo fa difese il diritto di Cuffaro a rimanere governatore nonostante una condanna per vicende legate alla mafia. E poi Storace dice: se è patrimonio di Alleanza Nazionale quell'appartamento, mi auguro veramente che abbiate scritto una montagna di balle, perché altrimenti è una vicenda appunto turpe ed è una ed è un qualcosa che appartiene al partito, all'ex partito Alleanza Nazionale, e non certo al cognato di Fini. Insomma, la politica è questa. Siamo davvero, questa è la domanda che ci si pone tutti, allo scontro finale tra Berlusconi e Fini? Chi lo sa? Ultimatum di Marchionne, il sindacato ora si schieri. Leggo il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, come detto l'apertura del Sole dedicata agli sviluppi sul caso Fiat. Marchionne ha confermato gli impegni del piano Fabbrica Italia, ma ha chiesto alle controparti e ai sindacati il sì o il no chiari a questo impegno, anche perché si tratta di investimenti per 20 miliardi di euro da qui al 2014, altrimenti potrebbero subire revisioni questi piani. Tra l'altro oggi il Sole 24 Ore pubblica un ampio stralcio dell'intervento proprio a Torino di Marchionne, di Sergio Marchionne, in primo piano: chiedo solo risposte certe, un sì o un no. Questo è il titolo dell'intervento avuto ieri nell'incontro con il governo. Lo troviamo a prima pagina, segue poi a pagina 20. E tra l'altro, gli sviluppi, il tema è quello spinoso delle relazioni industriali. Secondo Nicoletta Picchio sul Sole c'è l'intesa tra Confindustria e Fiat. Perché? Perché, come avevamo detto ieri, una delle ipotesi anche messa in campo da Lingotto è quella di uscire dalle relazioni industriali, di uscire da Federmeccanica, quindi uscire da Confindustria per avere poi le deroghe al contratto. Ora, un qualcosa che anche la leader dell'industriale Marcegaglia sta cercando di scongiurare. Ieri c'è stato un incontro proprio tra Sergio Marchionne e Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria. Riparte la trattativa con i sindacati, l'obiettivo contratto su misura per l'auto, ne scrive anche oggi Raffaella Polato anche sul Corriere della Sera. Si studia insomma questa deroga all'accordo nazionale. Secondo Raffaella Polato si sarebbe trovato una sorta di escamotage per rimanere all'interno del sistema di Confindustria, mantenendo però gli obiettivi di competitività indicati nel contratto di Pomigliano. Come? Beh, qui né Marcegaglia né Marchionne, scrive Raffaella Polato, lo dicono, le carte rimangono coperte, ma in sostanza la proposta di Confindustria, la proposta di Viale dell'Astronomia per la New Co Fabbrica Italia Pomigliano parte dall'articolo 16 dell'accordo di riforma degli assetti contrattuali. È quello lo spiraglio che consente in svariati casi e per favorire lo sviluppo economico occupazionale deroghe di fatto ai contratti nazionali. Di certo questo sarebbe la strada che si sta cercando per rimanere appunto all'interno delle relazioni industriali, quindi all'interno di Confindustria, ma avere deroghe ai contratti nazionali. Di certo anche Epifani, il numero uno della CGIL, in un'intervista all'Unità concessa a Rinaldo Gianola, il vice direttore, è molto critico. Operazione pericolosa contro Confindustria e contro il sindacato, dice Guglielmo Epifani, nessuna apertura, nessun passo avanti, sono molto deluso, ha ribadito Marchionne le sue posizioni al limite del ricatto, non ci sono cambiamenti nel suo diktat, né oggi, bisogna sottolinearlo, ci sono certezze sui volumi produttivi e gli investimenti del gruppo in Italia. La verità, dice Epifani, è che Marchionne continua a promettere investimenti che restano confusi, chiede una nuova organizzazione del lavoro, nuovi ritmi, deroga alle leggi e al contratto nazionale, ma poi non c'è la certezza di cosa produrranno le fabbriche italiane. Un Epifani dunque molto molto sospettoso e critico nei confronti di Fiat. Rimanendo in tema di auto, ma di auto e di trasporti, ma cambiando completamente discorso più sul piano pratico e tecnico, per tutti voi che andate in auto sappiate che c'è il nuovo codice della strada. Io vi devo segnalare intanto che la nostra Deborah Rosciani alle 8:15 ce ne parlerà in Soldi e Dintorni, tutte le novità della riforma del codice riguardante l'alcol, i limiti, la guida in stato di ebbrezza, l'uso degli stupefacenti e le macchine, le multe, le minicar, il trasporto degli animali, le conducenti, le sicurezze, insomma ci sono tantissime novità da apprendere. Io ricordo anche che da oggi il Sole 24 Ore e nei prossimi giorni, oggi vi dedica due pagine, ma anche nei prossimi giorni ci saranno tutti i documenti, i testi che potrete trovare a partire da oggi sulla riforma del codice della strada, che tra l'altro entrerà in vigore da domani, quindi per l'esodo estivo, quindi affrettatevi perché sono novità importanti da apprendere per tutti voi che da domani dovrete adeguarvi a queste novità che riguardano soprattutto una stretta sul consumo di alcol, per esempio il test antidroga per le patenti degli autisti professionali, no alcol per i neopatentati, insomma tantissime novità. Qualcosa ne scopriremo anche con Deborah Rosciani, oppure sul Sole 24 Ore, come detto, ci sono tutti i testi dei codici, del codice nuovo della strada che si può apprendere. Io sono in rapida conclusione solo per citare che il Corriere intervista una delle escort che si prostituiva nei locali di Milano, quelli che sono stati chiusi per droga, l'Hollywood e il The Club. Le mie notti da escort in discoteca, pagina 22 del Corriere della Sera. Si parla certamente di tanta cocaina e sesso. Ma questa vicenda ha dato spunto a molti giornali di parlare della storia di Belen. Belen, sapete, una delle donne più belle e anche più famose, più celebri, più in vista in questi ultimi tempi, in TV, in tutte le salse. Ebbene, Belen in questa inchiesta c'entra perché ha detto in passato mi è capitato di sniffare cocaina. Ha chiesto, ma avete visto il sindaco di Sanremo, non venga a Sanremo, poi ha fatto retromarcia, non è proprio come il caso Morgan. Si è scatenato un dibattito su Belen, che tra l'altro il cui sfogo viene raccolto da qualche amico dicendo avevo 20 anni, forse ho sbagliato una volta, ma mi stanno massacrando, ho 25 anni, sono una brava ragazza. Mi stanno distruggendo così. Il Riformista, per esempio, ieri con Caterina Soffici ha scritto: è una ragazza che non sa ballare né cantare, non è un'attrice né una comica, una che non sa insomma fare alcunché se non mostrare in ogni posizione sotto qualsiasi angolazione l'unica cosa che possiede, un corpo perfetto. Al che si è scatenato un dibattito. Per Michele Anselmi oggi sul Riformista, Belen invece incarna la modernità. Filippo Facci ci fa due pagine su Libero: Belen va da Sanremo anche se ha sniffato, tanto lo fanno tutti. Scrive Filippo Facci: il cocainomane interagisce con noi, è il chirurgo, il pilota, l'investitore dei nostri soldi, la maestra dei nostri figli, il tranviere Meneghino. A fermare tutto questo non basterà escludere Belen, non basterà neppure la legge, una diversa legge. Con questa logica, insomma, scrive Libero con Filippo Facci, sparirebbero tranvieri e maestre. Insomma, si è scatenato tutto un dibattito sulla figura di Belen Rodriguez legata a questa inchiesta.